Si parlava di un'opzione tedesca. Se questa prendesse corpo, in quali a grandi linee potrebbe essere questa proposta e anche quale tipo di default potrebbe portare? Il tipo di default probabilmente sarà quello che le agenzie di rating chiamano selective default, quindi un default selettivo su una parte del debito. In linea generale si parla di uno scambio di debito. Il punto è quali effetti potrebbe avere un'opzione di questo tipo. Le analisi macroeconomiche suggeriscono che quando questo tipo di opzione viene presa in considerazione, in realtà l'effetto sul debito totale del paese in termini di riduzione è abbastanza limitato. Ma sarebbe un modo, ancora una volta, per guadagnare tempo e dare la possibilità alla Grecia di rimettere in sesto le sue finanze, riprendere la crescita e quindi nel lungo periodo tornare ad essere solvibile. Ufficialmente a Bruxelles non si sarebbe parlato di Italia, ma il nostro paese è ormai osservato speciale in Europa. Quale fattore su tutti ha fatto scattare l'attacco speculativo contro il nostro paese? Anche su questo sentiamo Cinzia Alcidi, economista del CEPS di Bruxelles. Penso che l'elemento scatenante sia di natura politica. Incertezza politica. Fino adesso i mercati finanziari hanno tenuto l'Italia in una situazione diciamo speciale rispetto agli altri paesi periferici, perché essenzialmente la politica fiscale è stata rigorosa e c'è una certa fiducia nei mercati nei confronti del ministro Tremonti. Ora è chiaro che si trova in una situazione di spaccatura politica e questo ha generato una fortissima incertezza. I mercati temono che l'incertezza politica spinga verso manovre che siano più demagogiche, populistiche, quindi un aumento della spesa e quindi una situazione di mancato controllo della spesa pubblica. Come se ne esce? L'impressione è che a questo stadio le parole non servono più, non bastano più. Quindi è necessaria un'azione molto forte. I tempi stanno stringendo. Più aspettiamo, più diventa rischioso. Quindi la situazione è veramente una situazione di emergenza molto elevata. Vedremo che cosa verrà fuori oggi dall'Eurogruppo, ma c'è bisogno di una decisione e probabilmente anche con la possibilità che dei soldi siano messi sul tavolo. E con economia in Europa è tutto. Ci risentiamo la prossima settimana. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.